cerco una ragione, io perché io non mi chiami in capo, ma per uno escluso come me è giunta l'occasione di mostrare il tuo valore, di stupire le persone fuori da questa prigione. Non esistono parole per convincerti a restare, senti il sangue fermentare nel momento di lottare. Vuoi restartene giù? Ogni suo sogno anche tu, di non piangere più e di volare più su. Il cielo è sempre più blu, ma ad ogni tuo déjà vu, ma i miei papi disperati si rivolgono a Gesù. Maserati, BMW, parcheggiare giù città, in TV pubblicità di modelle senza età. Ma nella tua realtà le stelle stanno solo in cielo, per le strade solo là di spalle spacciatori d'ero. Un fratello e una sorella chiusi dentro un cimitero, 21 anni fuori casa ed un futuro troppo nero. In casa solo i testa, in testa solo una speranza. Se vuoi averla un'occasione devi crederci abbastanza. Mi ritorna in mente quel volto confuso che appariva fuori fuoco nelle foto di gruppo. Io ero escluso dai primi della classe, escluso anche dalle ragazze, di me lo ricordi, ero sempre in disparte. Tu vestiti di firmarti, io coi buchi e le scarpe. Escluso dalle feste mondane, escluso, escluso, escluso. Ti svegli nel tuo letto con un senso di vuoto, infinita leggerezza nell'essere ignoto. Tua nonna che ti fissa in quella foto sul comò, fai lavoro in un cantiere, l'ora ancora fuori a bere. Passi legge se ne tra B&G e Tupac, su quei fogli con la pena a raccontare verità. Baby, sono qua, dammi un po' del tuo affetto, tienimi stretto al tuo petto, portami fuori dal ghetto. Ma i miei papi disperati sono ancora spaventati, ricordi mescolati, prove senza risultati. Mi è giunta l'occasione che aspettavi ormai da anni, la sprecherai di nuovo, ripagherai i tuoi affanni. Quanti inganni da scoprire, quanti danni da subire, non puoi più sentirti dire che dovrai marcire qui. Non c'è posto in paradiso per chi viene dall'inferno, quanto è caldo l'inverno, perché è un demone all'interno. Mi ritorna in mente quel volto confuso che appariva fuori fuoco nelle foto di gruppo. Io ero escluso dai primi della classe, escluso anche dalle ragazze, di me non ricordi, ero sempre in disparte. Tu vestiti firmati, io coi buchi e le scarpe. Escluso dalle feste mondane, escluso, escluso, escluso. Ricordo di lottare passata senza dormire, quanti figli di puttana che ho dovuto tradire, quante ne ho sentito dire quando stavo al minorile. Mi davate le fallite, stavo zitta a non pedire. Io non posso più patire perché spinto dal rancore, sento esplodere il cuore, chi muore nell'esplosione? Forse qualche direttore d'etichetta discografica che vuol cambiarmi i testi, i contenuti e l'estetica. In pratica io credo farli affari con la musica, è più pericoloso che combattere l'atomica. Non seguo la tematica dell'etica politica e la fama di ispirare questa mia vena poetica. La parte teorica la lascia gente pubblica a quello che intervista, ma dopo non mi pubblica. Il mio rap non comunica, discografici infelici, vado a sbattere in fabbrica col cazzo che faccio amici. Mi ritorna in mente quel volto confuso che appariva fuori fuoco nelle foto di gruppo. Io ero escluso dai primi della classe, escluso, ma quelle povere ragazze sento urlarle come pazze. Mentre sono sopra il palco mi portereste a letto, non l'avrete questo cazzo. Vi ho escluso dalle mie feste mondane, vi ho escluso, escluso, escluso, escluso.